Capitolo 75. Bellerofonte. Bellerofonte, figlio di Glauco e nipote di Sisifo, lasciò Corinto avvolto in una nube, avendo ucciso prima un certo Bellero, il che gli valse il soprannome di Bellerofonte, poi il proprio fratello, cui viene attribuito di solito il nome di Deliade. Egli si rifugiò come supplice presso Preto, re di Tirinto, ma così volle la mala sorte, Antea, moglie di Preto, che altri chiamano Stenebea, si innamorò di lui a prima vista. Quando Bellerofonte rifiutò le sue profferte, essa lo accusò di aver tentato di sedurla e Preto, che credette alle parole della moglie, si infiammò d'ira. Non volle tuttavia tirare su di sé la vendetta delle Moire, uccidendo con le proprie mani un supplice, e mandò dunque Bellerofonte dal padre di Antea, Iobate, re di Licia, con una lettera sigillata che diceva così: «Ti prego di allontanare il latore dal mondo dei vivi. Egli tentò di violentare mia moglie, tua figlia». Iobate, parimenti restì a uccidere un ospite, chiese a Bellerofonte di rendergli un prezioso servigio uccidendo la chimera, un mostro dall'alito infuocato, la testa di leone, il corpo di capra e la coda di serpente. «Essa è una figlia di Echidna», spiegò Iobate, «e il mio nemico, il re di Caria, se la tiene in casa come un animale domestico». Prima di partire per quell'impresa, Bellerofonte consultò il veggente Poliido, che gli consigliò di catturare e domare l'alato cavallo Pegaso, il favorito delle muse. Codesto animale viveva sul monte Elicona e colà aveva fatto sgorgare per le muse la fonte Ippocrene, battendo al suolo il suo zoccolo lunato. Pegaso in quel periodo non si trovava in Elicona, ma Bellerofonte lo rintracciò sull'Acropoli presso un'altra delle sue fonti, la fonte Pirene, e gli passò sopra il capo una briglia d'oro, dono di Atena. Ma altri dicono che Atena consegnò a Bellerofonte il cavallo già imbrigliato e altri ancora che fu il padre suo Posidone a consegnarglielo. A ogni modo, Bellerofonte riuscì a sopraffare la chimera, piombandole addosso a cavallo di Pegaso, trafiggendola con le frecce e poi conficcandole tra le mascelle un pezzo di piombo che aveva infilato sulla punta della lancia. L'alito infuocato della chimera fece sciogliere il piombo che le scivolò giù per la gola, bruciandole gli organi vitali. Iobate, tuttavia, lungi da ricompensare Bellerofonte per la sua audacissima impresa, lo mandò subito a combattere contro i bellicosi Solimi e le loro alleate, le Amazzoni. Bellerofonte li sconfisse tutti volando alto, fuori portata dal tiro delle frecce, lasciando cadere grosse pietre sulle loro teste. Poi, nella pianura licia, dove scorre l'Oxanto, sgominò una banda di pirati guidata da un certo Chimarro, guerriero focoso e millantatore, che navigava su una nave con la prua adorna di una figura di leone e di serpente. Poiché Iobate non mostrò alcuna gratitudine, anzi appostò le guardie di palazzo in imboscata per sorprenderlo al suo ritorno, Bellerofonte smontò da cavallo e pregò Posidone affinché, via via che egli avanzava a piedi, inondasse la pianura dell'Oxanto alle sue spalle. Posidone ascoltò la supplica e spinse verso la pianura enormi ondate che lentamente si gonfiavano mentre Bellerofonte avanzava verso il palazzo di Iobate. E poiché nessun uomo poté indurre Bellerofonte a fermarsi, le donne Xantie rialzarono le sottane fino alla cintura e in quell'arnese si precipitarono verso di lui, offrendosi al suo piacere se soltanto avesse desistito dall'avanzare. Bellerofonte era tanto modesto che immediatamente girò sui tacchi e fuggì di corsa, e le onde si ritirarono con lui. Convinto ormai che Preto si fosse sbagliato circa il tentativo di violenza compiuto contro la virtù di Antea, Iobate mostrò a Bellerofonte la lettera del genero e gli chiese che cosa fosse accaduto. Saputa la verità, implorò il perdono del giovane, gli diede in sposa sua figlia Filinoe e lo nominò erede del trono di Licia. Lodò inoltre le donne Xantie per la loro prontezza di spirito e ordinò che in futuro, tra tutti gli Xanti, la discendenza fosse matrilineare e non patrilineare. Bellerofonte, giunto così all'apice della fortuna, con molta presunzione osò volare verso l'Olimpo, quasi fosse un immortale. Ma Zeus mandò un tafano che punse Pegaso sotto la coda facendolo sgroppare, e Bellerofonte cadde ingloriosamente sulla terra. Pegaso raggiunse tuttavia l'Olimpo, e Zeus si serve ora di lui come bestia da soma per trasportare le folgori. Quanto a Bellerofonte, precipitato in un roveto, vagò a lungo sulla terra, zoppo, cieco, solo e maledetto. sempre evitando le strade battute dagli uomini finché la morte lo colse. Il tentativo di seduzione compiuto da Antea su Bellerofonte si ritrova in molti altri miti greci, nella leggenda palestinese di Giuseppe e della moglie di Putifarre e nella egiziana storia dei due fratelli. L'origine di questo mito è incerta. La figlia di Echidna, la Chimera, che è raffigurata su una costruzione ittita a Carchemish, era il simbolo dell'anno tripartito sacro alla grande dea. Il leone rappresentava la primavera, la capra l'autunno, il serpente l'inverno. Un frammento di specchio trovato a Dendra, presso Micene, mostra un eroe che lotta con un leone, dalla cui schiena emerge qualcosa di simile a una testa di capra, mentre la coda è lunga e serpentina. Poiché lo specchio data dall'epoca in cui il potere della dea era ancora incontrastato, la sua scena, che ha un parallelo in un affresco etrusco di Tarquinia, benché qui l'eroe monti a cavallo, illustrava senza dubbio il combattimento rituale che il re doveva sostenere prima della incoronazione contro uomini travestiti da animali e rappresentanti le diverse stagioni dell'anno. Dopo la rivoluzione religiosa achea, che subordinò la dea Era a Zeus, l'immagine divenne ambivalente. Si poteva interpretare cioè come la raffigurazione simbolica degli elleni invasori che sopprimono l'antico calendario cario. Il mito di Bellerofonte, che doma Pegaso, il cavallo della luna usato nei riti propiziatori di pioggia, con l'aiuto di una briglia fornitagli da Atena, lascia supporre che il candidato alla regalità sacra fosse incaricato dalla triplice musa, dea della montagna, o dalla sua rappresentante di catturare un cavallo selvaggio. Parimenti Eracle cavalcò poi Arione, essere lunare che sta in alto, quando prese possesso dell'Elide. A giudicare da certi riti primitivi danesi e irlandesi, la carne di questo cavallo era mangiata sacramentalmente dal re dopo la sua rinascita simbolica dalla dea della montagna con la testa di giumenta. Ma anche tale parte del mito è ambivalente, può ricordare la conquista dei santuari della dea della montagna ad Ascra, sul monte Licona e a Corinto, compiuta dagli invasori elleni. Un evento analogo si rispecchia nella leggenda di Posidone, che usa violenza all'arca di Demetra dalla testa di cavalla, generando in lei il cavallo lunare Arione, e usa violenza a Medusa, generando in lei Pegaso, il che spiega come mai Posidone abbia una parte importante nel mito di Bellerofonte. L'umiliazione inflitta da Zeus a Bellerofonte è un aneddoto morale, narrato allo scopo di scoraggiare qualsiasi rivolta contro la religione olimpica. Bellerofonte, che vola verso il cielo, si identifica con suo nonno Sisifo o Tesup, un eroe solare il cui culto fu sostituito dal culto di Zeus. Egli subisce perciò una fine ingloriosa che ricorda quella di Fetonte, figlio di Elio. I nemici di Bellerofonte, i Solimi, erano i figli di Salma. Poiché tutte le città e tutti i promontori il cui nome comincia con la sillaba Salma erano situati a Oriente, Salma era probabilmente la dea dell'equinozio di primavera, ma ben presto essa fu mascolinizzata come il dio sole Solima o Selim, Solomone o Absalom, che diede il suo nome a Gerusalemme. Le Amazzoni erano le sacerdotesse guerriere della dea lunare. Il mito di Bellerofonte che fugge dinanzi alle donne Xantie fu forse tratto da una raffigurazione di un gruppo di donne invasate dall'ippomane, sia un'erba, sia il vischioso liquido vaginale di una cavalla in calore, sia la nera membrana tagliata dalla fronte di un puledro appena nato, che inseguono lungo la riva del mare il re giunto al termine del suo regno. Queste donne portano le gonne rimboccate, come in Egitto nel culto erotico di Api, affinché, mentre smembreranno il re, il suo sangue schizzi sui loro ventri, dando a essi nuova vita. Poiché Xanto, giallo, è il nome di uno dei cavalli di Achille, di uno dei cavalli di Ettore e di un altro cavallo donato a Peleo da Posidone, codeste donne indossavano forse maschere rituali da cavallo, con criniere gialle come la luna piena. Le cavalle selvagge, infatti, avevano divorato il padre di Bellerofonte, Glauco, sulla spiaggia di Corinto. Questo mito, sia pure modificato, contiene tuttavia un elemento primitivo. L'avvicinarsi di donne nude al capo del proprio clan, con il quale ogni rapporto sessuale era proibito, costringeva quest'ultimo a fuggire nascondendosi il volto. Nella leggenda irlandese la stessa astuzia fu usata contro Cuchulainn, quando non parve possibile arrestare la sua furia con altri mezzi. La leggenda della discendenza matrilineare imposta agli Xanti è stata capovolta. Furono in verità gli Elleni che imposero la regola della discendenza patrilineare a tutti i Carii, fuorché agli Xanti strettamente conservatori. Il nome di Chimarro deriva da Chimaros o Chimaira, capra. Questo personaggio bellicoso, con la nave dalla poppa adorna di una figura di leone e di una di serpente, fu introdotto nella leggenda di Bellerofonte da qualche evemerista per dare una spiegazione logica della chimera dall'alito infuocato. Monte Chimera, Monte della Capra, era anche il nome di un vulcano attivo presso Faselide in Licia, il che giustifica la leggenda del suo alito infuocato.